Io sono Rita, ho 24 anni e mi sto per laureare in Lingue e Letterature Moderne all'Università di Genova. Sono referente del presidio Rita Atria di Imperia e dei progetti di formazione nelle scuole. Il mio impegno in Libera è iniziato nel 2012 e da allora non si è mai fermato. La mia pillola conterrà consigli di lettura per ragazzi e per le loro famiglie. Avete sentito come si chiama il presidio imperiese di Libera di cui sono referente? Rita Atria. Il primo libro che vi consiglio oggi parla proprio di lei, giovane ragazza che sfidò la mafia. Volevo nascere vento è stato scritto da Andrea Gentile ed edito da Mondadori nel 2012. Ci racconta la vera storia di Rita Atria. Nata nel 1974 a Partanna, un piccolo paese della provincia di Trapani. Fin da piccola, Rita cresce in mezzo alla mafia. Il padre Vito è uno dei principali esponenti e per questo viene ucciso da Cosa Nostra, la mafia siciliana. Questa perdita addolora la giovane Rita, che si lega molto al fratello Nicola. Purtroppo, anche lui fa parte della criminalità e gli viene ben presto tolta la vita. Ma Rita e la moglie di Nicola, Piera, decidono di prendere una strada diversa. Vogliono collaborare con la giustizia raccontando tutto quello che avevano vissuto e appreso dalla loro famiglia. Rita scrive tutto su un diario che capita nelle mani di una persona che ben conoscerete, Paolo Borsellino. Tra i due si instaura un bellissimo rapporto di fiducia e Paolo diventa come un secondo padre per Rita. Per questo, quando lui perderà la vita, la giovane ragazza vedrà crollare tutte le speranze in un mondo migliore e si lascerà andare nel vento. Rita Atria rappresenta da allora un punto di riferimento per coloro che con coraggio decidono di denunciare la violenza della mafia. Immaginate una comune adolescente che va contro la propria famiglia e rompe un muro di silenzio. Una ragazza semplice, acqua e sapone, un adolescente dal carattere forte che affrontò con un coraggio straordinario qualcosa di molto più grande di lei e assai pericoloso. In Volevo nascere vento conoscerete meglio Rita e i suoi sentimenti, il suo coraggio e la sua fragilità. Su di lei è anche stato girato un film dal titolo La siciliana ribelle, uscito nel 2007 con la regia di Marco Armenta. Voglio consigliarvi anche questo. Il secondo libro che voglio consigliarvi è introdotto da un'altra donna speciale, Maria Falcone, sorella del magistrato Giovanni. Sto parlando del libro Per questo mi chiamo Giovanni, scritto da Luigi Garlando nel 2004, edito da Burr. Anche in questo caso si parla di un rapporto speciale. Un bambino di nome Giovanni, nel giorno del suo 10° compleanno, viene portato dal papà in una gita attraverso la città di Palermo. Per spiegargli come mai, di tutti i nomi possibili, per lui è stato scelto proprio Giovanni. Tappa dopo tappa, nel racconto prendono vita i momenti chiave della storia di Giovanni Falcone, il suo impegno, le vittorie e le sconfitte, le rinunce, l'epilogo. Giovanni scopre che il papà non parla di cose astratte. La mafia c'è anche a scuola, è nel ragazzino prepotente che tormenta gli altri, è nel silenzio di complicità di chi ne avvolge le malefatte. La mafia è una nemica da combattere subito, senza aspettare di diventare grandi. anche se ti chiede di fare delle scelte e subirne le conseguenze. Questo ci è raccontato anche in un cartone prodotto da Rai Edu, Giovanni e Paolo, due amici straordinari, assolutamente da non perdere, perché ci spiega come, anche se non siamo adulti, possiamo essere coraggiosi e giusti. Prima di continuare con l'ultima proposta di lettura, voglio farvi sentire una canzone. Si intitola Svuoto il bicchiere ed è di Gero. Parla di un padre e di una figlia speciali. Andatela ad ascoltare tutta e provate a indovinare di chi si tratta. L'ultimo consiglio è per i più grandi. Potete anche suggerirlo ai vostri genitori. Si tratta di Il giorno della civetta di Leonardo Sciascia. Questo libro è stato scritto dall'autore siciliano nel 1961, moltissimo tempo fa, quando ancora nessuno parlava o scriveva di mafia. Leggendo questo libro, io ho avuto la sensazione di ricevere quanto di più grande la letteratura possa offrire. Informazione e formazione, ma anche mistero, perché si avvicina molto al genere giallo. Allora, buona lettura!